Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. So 1-0 up. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile. Ben ritrovati alla finestra sul cortile da Cristina Battocletti, che vi terrà compagnia per qualche puntata prima del ritorno di Riccardo Chiaberge, che vi saluta. Ma sentiamo subito di che cosa abbiamo scelto di parlarvi nella nostra finestra sulla cultura internazionale. Finlandia. Come si misurano le reazioni psicofisiologiche degli spettatori di film mediante sensori? Inghilterra. Secondo una ricerca, Gesù è la persona che gli inglesi vorrebbero maggiormente incontrare. Segue Lady Diana. Germania. James Bond, un mito in evoluzione. Un congresso analizza l'eroe anche dopo l'11 settembre. Stati Uniti. Boom delle autoedizioni via internet. Che futuro per l'editoria tradizionale? Inghilterra. Grattacieli per animali selvatici. L'ultima invenzione degli architetti per far tornare gli animali nelle nostre città. Giappone. AAA. Affittasi famiglia e amici per il matrimonio. Sempre più futuri sposi affittano figuranti per le proprie nozze. Ci trasferiamo dunque subito negli Stati Uniti, dove è accaduto un fatto eccezionale nel settore dell'editoria. Per la prima volta, quello che viene chiamato il self-publishing in America ha superato l'editoria tradizionale. Il self-publishing, o stampa on demand, si potrebbe tradurre in italiano autoedizione, cioè quel fenomeno per cui chi ha nel cassetto un manoscritto e decide di pubblicarlo senza ricorrere a un editore tradizionale, magari perché è stato rifiutato, va su internet, sceglie il formato e la copertina e poi ne ordina qualche copia per un prezzo ragionevole. La distribuzione nelle librerie chiaramente non c'è, il libro viene inserito in un catalogo sul web e chiunque sia incuriosito dalla recensione può ordinarlo o scaricarlo. Dunque ci sono degli aspetti positivi anche a livello di impatto ambientale. Innanzitutto non ci sono copie invendute, quindi niente fondi di magazzino o tomi da mandare al macero. Uno svantaggio è la qualità editoriale, che non è garantita, anche se molti siti offrono anche un servizio di editing, che per le case editrici classiche è d'obbligo. Nel self-publishing è a discrezione dell'autore, assieme alla consulenza sulla copertina, si raddoppia o addirittura si triplica il prezzo iniziale. E in America si arriva a sborsare addirittura 1.500 o 8.000 euro. Bisogna diffidare però da chi sul web impone allo scrittore di comprare un tot di volumi. Questo è contrario ai principi del self-publishing, che proprio vuole che l'autore decida lui stesso quante copie ordinare. Innanzitutto l'autoedizione, se così si può definire in italiano, erode una fascia del mercato che è lasciata intatta perché mai considerata dall'editoria tradizionale. Si può parlare dei libri destinati per esempio all'entourage familiare, alle pubblicazioni universitarie che sono spesso riservate a pochi adepti, alle ristampe e via dicendo. Ma tornando agli Stati Uniti, dicevamo, per la prima volta il numero dei titoli stampati via internet è superiore a quello dell'editoria tradizionale, 285.000 titoli contro 275.000. In Italia i siti più accreditati in questo settore sono lulu.com, Bupen, Lampi di Stampa e Il Mio Libro. Ma che peso potrà avere questo fenomeno in Italia? Lo chiediamo a Giuliano Vigini, che è tra i maggiori esperti nel campo dell'editoria e fondatore dell'editrice Bibliografica. Ben trovato, Giuliano Vigini. Buongiorno a tutti. Che numeri ha raggiunto il self-publishing in Italia? Beh, è difficile, certamente non quelli degli Stati Uniti, però è certamente in aumento, perché quello che è diciamo in forte crescita è soprattutto la stampa digitale tradizionale, cioè su un libro di carta, quindi non tanto, non, o perlomeno non solo attraverso internet, che funziona appunto come sito, come blog, eccetera, ripeto, a pagamento meno, non solo i libri ma anche gli articoli, ecco, mentre invece funziona ancora soprattutto l'editoria su stampa cartacea, ecco, e quindi questo è un grande sviluppo, che può essere appunto sviluppata sia da una normale tipografia a cui l'autore si rivolge, sia appunto queste case editrici che non sono soltanto stampatrici ma appunto fanno anche editing del libro, e dove appunto attraverso questi siti internet uno, a partire da 99 euro come come dice il sito di Lampi di Stampa, ecco, si può scegliere la copertina, i caratteri, eccetera, quindi costruire un proprio libro a sua misura. Ecco. Beh, un prezzo più che ragionevole, insomma, sì, 99 euro. Certamente è un prezzo ragionevole, anche se poi invece è tutto un altro fenomeno, quello degli editori a pagamento che invece proliferano, perché su infatti abbiamo avvertito che è una cosa diversa. Che, oltre 9.000 editori che sulla carta sono attualmente in circolazione in Italia, almeno una metà sono a pagamento, diciamo, con qualche forma di commissione. D'altra parte questo risponde anche all'evoluzione un po' dell'editoria, perché ormai, siccome il mercato del libro si radicalizza e si concentra sempre di più, diventa difficile anche pubblicare un determinato tipo di saggi o di contributi particolari, perché nessun editore lo potrebbe pubblicare e tantomeno potrebbe dargli quella pubblicità, quella diffusione che magari anche merita. Allora la stampa digitale, ecco, viene incontro appunto a queste esigenze, cioè l'esigenza di pubblicare le 100 copie, le 200 copie, anche meno, ecco, una tiratura limitata destinata a un pubblico ben individuato e al quale magari ci si rivolge anche attraverso internet. Ma questo pubblico ha un'età, è giovane oppure si rivolge a una fascia media? Direi che quello del libro a stampa, diciamo tiratura stampa su richiesta, è un po' un genere molto vario, sia come autori sia anche come destinatari di questo libro. Certamente il pubblico giovane è molto sensibile ai nuovi mezzi. Senta, il dato americano la sorprende o la preoccupa? No, non sorprende e non preoccupa, nel senso che sono mercati paralleli. L'editoria tradizionale si orienta sempre di più verso il mercato, verso i best seller, mentre tutta quest'alta produzione appunto viene favorita dai nuovi mezzi, emerge, dalle nuove tecnologie e anche da queste macchine potenti, perché lei pensi che una macchina che stampa appunto in digitale oggi possono fare 1.000 pagine al minuto. Certo. Quindi questo vuol dire che insomma si può fare un libro, poi se uno ha bisogno, per dire, di altre copie, le stampa nel giro le di le fa al momento. Tempo. Quali scenari vede per l'Italia? Ma io vedo un'espansione certamente della stampa su richiesta, cioè del cosiddetto print on demand, ecco, perché questa è la via, e naturalmente anche la via attraverso internet, perché, come dicevo, molti di questi siti possono permettere di farsi un libro con una cifra determinata ragionevole, una cifra ragionevole, ma poi anche danno la possibilità di metterlo attraverso il circuito dei siti di commercio elettronico. Quindi uno fa il libro, ma se poi uno lo vuole vendere, lo può vendere attraverso questi collegamenti con i siti di commercio elettronico, anche senza passare dalla libreria. Ecco. Dipende naturalmente dalla natura del libro, perché, come già sottolineava lei, si possono fare dispense universitarie, si possono fare i libri per l'ambito familiare. Io stesso, per esempio, ho fatto una volta un libro in 99 copie appunto da distribuire agli amici, cosa a pochi che naturalmente adepti. È un libro che nessuno avrebbe pubblicato. Staremo allora a vedere come andrà in Italia. Ringraziamo Giuliano Vigini e speriamo di riospitarlo per capire meglio come sarà il fenomeno nel 2009. Buongiorno. Spostiamoci ora in Inghilterra con torri alte come grattacieli per ospitare animali selvatici. Ci hanno pensato a Leeds, in Inghilterra, una città industriale anche con un'università che ha visto scemare negli anni la presenza di animali selvatici. Nella zona si parla di pipistrelli, uccelli, farfalle, insetti, ma anche di volpi. Così un architetto di 26 anni, Neil Oxy, ha pensato di fare delle torri alte 40 40 piedi, cioè i nostri 12 metri, vicino a corsi d'acqua, in mezzo alle ciminiere delle fabbriche, in cui possano trovare rifugio, nido, tana, questi animali selvatici che ora non ci sono più. E hanno pensato alla verticalizzazione proprio perché la strada è, in strada c'è la presenza umana e anche degli animali domestici. E così si progetta il man-made tree, così lo chiama il suo inventore, cioè l'albero fatto dall'uomo. Sono torri costruite interamente con materiale riciclato, e l'esigenza è nata proprio quando non si sentiva più il canto degli uccellini la sera e la mattina. Il tutto potrebbe tra l'altro essere anche un esperimento architettonico molto strano, che potrebbe richiamare dei turisti. Tutti si sono compattati attorno al progetto, autorità, scienziati e comunità. Riuscirà? Vedremo. E ora in Giappone che ci sorprende sempre. Si parla di matrimoni perché si affittano figuranti che fingano di essere membri della famiglia, amici o colleghi per gonfiare la lista degli invitati alle nozze. Infatti i giapponesi vedono il matrimonio come un'occasione formale dove non deve mancare il giusto numero di amici e colleghi che facciano discorsi o che facciano ragazzate, tipo il taglio della cravatta o lanciare la sposa nell'acqua o convenevoli e via dicendo. Poi ci sono anche degli invitati che non sono presentabili, quindi si preferisce chiamare altre persone che per la cifra di 2000 yen, cioè $200, fanno una bella presenza, e poi con 5000 euro yen in più, cioè $50, possono anche cantare e fare un discorsetto. Il direttore dell'agenzia, che è Hiroshi Mitsutani, dice che le richieste sono in aumento. Per il 2008 100 sono state le richieste di queste comparse, anche per fare il capo. Essenzialmente, se il capo declina l'invito al matrimonio, i parenti potrebbero rimanerci male, e quindi si inventa questa figura del capo. Oppure c'è chi, ha raccontato Mitsutani, in seconde nozze non ha voluto assolutamente richiamare gli invitati delle prime nozze perché portava male, e quindi ha chiamato soltanto comparse. Dunque queste comparse sono flessibili perché vanno anche ai funerali come le nostre prefiche e altre occasioni. Per esempio, se la mamma o il papà insiste che bisogna trovare un fidanzato, fingono di essere i nostri fidanzati, quindi si portano a casa, e così i genitori si tranquillizzano. Oppure sottoposti, segretari assistenti che ci facciano sentire importanti davanti agli altri. La finestra sul cortile. Ben ritrovati alla finestra sul cortile. Spostiamoci ora in Finlandia, a Vaasa, all'ID TV Lab, dove si proiettano film in un laboratorio a spettatori volontari che vengono collegati con dei sensori a un apparecchio televisivo. Spieghiamo cosa succede. Si misurano le reazioni psicofisiche alle scene dei film. Questi spettatori sono seduti su un divano rosso, sono divisi solo da un tavolino basso, da uno schermo gigante al plasma. Sul tavolino c'è una telecamera a infrarossi che registra tutti i movimenti delle pupille, sembra quasi ET, ed è diretta appunto verso gli occhi. Sulle dita invece sono legati con del velcro dei sensori che registrano i ritmi cardiaci, e poi ci sono sensori che controllano il livello della sudorazione. Dunque questo laboratorio, che è a circa 400 km da Helsinki, è composto da scienziati, ingegneri, sociologi, i quali sono molto famosi soprattutto a Hollywood. In realtà il laboratorio si occupa non solo di cinema, ma anche di telefonia mobile, di TV e di internet. Praticamente viene commissionata dai grandi registi la visione di alcuni film, e a seconda delle emozioni che provano gli spettatori il montaggio cambia. Per esempio, se una scena è particolarmente noiosa, i registi sanno che devono renderla più movimentata, oppure viceversa. Se è troppo movimentata, se i battiti cardiaci sono eccessivi e non si vuole fare un thriller, si cerca un po' di ammorbidire il montaggio. A loro si sono rivolti per esempio Spielberg e anche Quentin Tarantino, e ci viene da immaginare se per esempio Pulp Fiction o Kill Bill sarebbe stato diverso se non fosse passato attraverso l'ID TV Lab. Ma noi abbiamo in linea Goffredo Fofi, critico cinematografico. Le diamo il benvenuto. Buongiorno, salve. e gli chiediamo se ha mai provato un'esperienza del genere, visto la sua lunga carriera di spettatore. Assolutamente no, ho provato esperienze più tradizionali, più collegate forse al modo di fare marketing che era tipico di Hollywood negli anni 30 fino agli anni 70, cioè quello delle preview, delle visioni preventive a caso, a sorpresa, di un film montato nel primo montaggio in qualche sala periferica, in qualche sala di paese, per vedere alla fine le reazioni del pubblico con dei questionari ai quali il pubblico doveva rispondere. Sono passati di lì anche dei grandi capolavori della storia del cinema americano, che venivano appunto dai registi, ma soprattutto dai produttori, modificati dopo queste primissimi assaggi di rapporto con il pubblico. E a volte devo dire, insomma, onestamente c'è anche stato qualcosa di positivo in questo: dei film che potevano essere presuntuosi o noiosi venivano ridimensionati dagli autori a seconda delle reazioni del pubblico. Il pubblico aveva da dire la sua, insomma, in qualche modo era coinvolto nella produzione, nella realizzazione del film. Ecco, nel film c'era un rapporto diretto tra gli autori e il destinatario. Ecco, questo a me è successo per motivi diversi, nel senso di assistere a delle anteprime, diciamo così, dentro dei laboratori fatte da registi amici che mi volevano mostrare il film prima di buttarlo fuori, prima di dare il taglio definitivo al montaggio, e di discutere con il regista e dire la mia, dire questo mi pare che funzioni, questo non funziona, eccetera eccetera. Questo ed hanno accolto le obiezioni? Ma in genere sì, perché erano registi amici, quindi c'era un dialogo, non è che ero invitato da quelli che mi detestavano, ero invitato da quelli che in qualche modo ci tenevano a un confronto con qualche persona amica, a volte ero solo, a volte ero con altri amici insieme. Ma si ricorda di qualche film in particolare, di questi che ha visto? I film di Bellocchio, i primi per esempio, quando eravamo molto amici in gioventù, e anche altri film, insomma, adesso non me li ricordo, ma diversi, sempre però in quest'area, come si può dire, giovanil marginale più che quella centrale del cinema, diciamo, di grande consumo. Ecco, era già un cinema d'autore, o pretendeva essere un cinema d'autore. In questo caso invece mi pare che si parli quasi esclusivamente di un cinema non di autore. Io non considero, sia chiaro, Spielberg un autore. Spielberg è un geniale facitore di prodotti commerciali chiamati film, ma con l'autore a volte ha sfiorato anche una sua qualche genialità in film come L'Impero del Sole, nello stesso E.T. e soprattutto nei primissimi, però insomma a me pare che sia un mercante, detto in modi estremamente espliciti. E Tarantino? Tarantino un po' lo stesso. Tarantino ha di diverso che si rivolge a un pubblico diverso, più giovanile, più irregolare, meno familiare, meno familista, però anche quello una fetta di pubblico definita molto vasta nel mondo, è attirata molto per esempio dal tema della violenza e, come dire, dal kitsch della rappresentazione della violenza, dal fumetto della rappresentazione della violenza. Sì, è talmente violento che poi fa ridere quasi, no? Sì, a volte fa anche ridere, perché appunto c'è questo rapporto un po' totalmente diciamo pure folle con la violenza, perché credo che se a Tarantino facessero un millesimo di quello che lui fa fare fittiziamente a certi attori nei suoi film, Tarantino, come dire, svenirebbe dopo la prima goccia di sangue probabilmente. Però appunto è un mercante anche lui, entra in questo meccanismo. Il salto di qualità nell'operazione finlandese sta nel fatto che non ci sono più delle prime rappresentazioni con un pubblico che poi è chiamato a discutere, a dire questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto, ma ci sono proprio delle cavie, delle vere e proprie cavie, e si tratta di un processo nuovo che gli specialisti chiamano di neuromarketing, che significa né più né meno appunto di controllare le reazioni anche le più intime psichiche di uno spettatore prima di lanciare un prodotto di uno spettatore o anche di un degustatore, perché queste operazioni si possono fare su dei cibi, si possono fare su dei... Ma questo nel caso del cinema le sembra utile o in qualche modo uccide il genio, la poesia? Nel caso del cinema è una logica conseguenza di un sistema che privilegia un cinema di robotico, diciamo meccanico, estremamente meccanico, costruito per un pubblico da robotizzare o già ampiamente robotizzato. Io credo che la cosa più disgustosa di questa operazione sta nel fatto che queste cavie sono volontarie, queste cavie, diciamo, del cinema attuale sono cavie che si divertono, che gli piace, che si sentono consolate, che si sentono gratificate a partecipare a questa enorme impresa di costruire dei film totalmente robotici e testati su di loro, per di più, sulle loro reazioni. Staremo a vedere come funzionerà. Ringraziamo Goffredo Fofi e, va bene, e a presto, grazie. Siamo in Germania perché ieri si è aperto all'Università di Saarbrücken un congresso internazionale dedicato all'agente segreto britannico 007. Ci sono 30 conferenze in programma ed è un incontro accademico che durerà fino a domenica e varie sono le domande sul tavolo, domande fondamentali, per esempio: James Bond è un serial killer e come mai riesce ogni volta a cavarsela? Come fa a far presa su tutte quelle donne e soprattutto che effetto hanno avuto su di lui gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001? Joachim Frank, che è il professore di letteratura all'Università di Saarbrücken, diciamo non si è giustificato ma ha messo le mani avanti. Ha detto: metà della popolazione mondiale ha visto almeno un film di James Bond e quindi è giusto parlarne, quando alcuni gli dicevano magari c'è qualcosa di più serio. E comunque sono molti, moltissimi coloro che partecipano, pertanto l'interesse è vivo. E noi ci chiediamo, dopo le 20 e più pellicole di 007 che ogni volta fanno successo di pubblico e di cassetta, qual è l'attore preferito? A noi risulta sempre Sean Connery e comunque staremo a vedere i risultati di questo congresso. Gesù è la persona scomparsa che in assoluto gli inglesi vorrebbero incontrare di più. Questo è un sondaggio che è stato fatto in Inghilterra su un campione di circa 3.000 persone. Perché? Forse perché vorrebbero conoscere questa figura rivoluzionaria, forse perché vorrebbero scoprire alcuni segreti, così viene detto. Però subito dopo Gesù vediamo che c'è Lady Diana. Lady Diana, la principessa morta in un incidente stradale nel 1997, e le motivazioni che sono state date era perché ha sconvolto un po' la famiglia reale e per l'impatto mediatico che ha avuto sul pubblico, era molto empatica appunto con la gente. Al terzo posto troviamo William Shakespeare per il suo sogno di una notte di mezz'estate, per Romeo e Giulietta, per Re Lear, per Amleto, mentre il 23% degli inglesi vorrebbero incontrare Einstein, probabilmente per chiedergli qualcosa sulla teoria della relatività. E subito dopo abbiamo Leonardo da Vinci per la sua Mona Lisa, seguito da Elvis Presley, il re del rock. Soltanto il 10% ha detto che, tralasciando un po' la domanda principale, vorrebbe essere nella Inghilterra preistorica. E noi ci fermiamo qui, un saluto e un augurio di buon weekend da Cristina Battocletti, un ringraziamento in particolare a Daniele Gazzagrande e a Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Ci risentiamo la prossima settimana con La finestra sul cortile.